Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Avanti la protesta dei tassisti contro il servizio Uber, che permette di prenotare un'automobile con conducente grazie ad un'applicazione per smartphone. Qualunque applicazione o innovazione che eroghi un servizio pubblico non di linea, non autorizzato, siamo in presenza di esercizio abusivo della professione. Il ministro Lupi ha poi annunciato la creazione di un tavolo al Ministero dei Trasporti con regioni e comuni per mettere a punto i decreti attuativi della legge sulla concorrenza del 2008, che riguarda anche i taxi e sulla cui assenza Uber sta giocando la propria partita per rivendicare la nullità dell'intera norma e quindi la correttezza dell'applicazione Uber Pop. Sapevo che l'avremmo esaurito in una puntata il discorso su Uber. Stamattina vorrei parlarne, ritornare su questo argomento, ma per una semplice ragione, per il fatto che sono sommerso ormai da messaggi sia da Twitter sia su Facebook di persone che si stanno su questa vicenda, diciamo, confrontando in maniera animata. Ci sono naturalmente quelli che dicono è un servizio antisindacale che vuol togliere il pane ai tassisti, vengono da multinazionali, c'è dietro Google, c'è dietro le grandi banche, ci sono le multinazionali e via dicendo. Ci sono quelli che invece dicono, fanno delle somme, dice ma scusatemi, ma vogliamo fare un passo avanti, è un'applicazione che ci permette di seguire a tempo reale, la macchina ci viene a prendere, è un servizio con delle garanzie e degli standard alti, sì lo paghiamo di più ma a noi ci sta bene, vogliamo macchine perfette, autisti silenziosi, vogliamo che il pagamento avvenga in maniera elettronica, manco mettere mano ai soldi, discutere, la ricevuta sì, la ricevuta no, siamo tranquillissimi, possiamo esprimere il nostro punteggio nei confronti dell'autista, quindi se l'autista non funziona o non sa fare il suo mestiere viene cacciato da Uber, ma allo stesso tempo noi siamo certificati come clienti, siamo clienti sguaiati, maleducati, trattiamo male il conducente, non sappiamo comportarci, puzziamo e via dicendo, veniamo altrettanto noi cacciati. Beh, oggi ci stiamo su questo abbastanza interrogando, anche perché avete sentito, ci sono state le dichiarazioni ufficiali, il ministro Lupi ha detto finirà l'illegalità, però allo stesso tempo il premier Matteo Renzi a una trasmissione radiofonica ieri ha detto che dice è un servizio fighissimo, l'ho provato, ne parleremo, è una cosa che funziona, ne parliamo fra una settimana. L'impressione che sia un po' che in clima preelettorale nessuno voglia compromettersi ampie fette di possibile consenso, quindi il problema sarà spostato a dopo le elezioni, ma prima o poi se ne dovrà parlare. Come noi risolveremo un problema che ancora sembra irrisolvibile, che esista, con questo non voglio prendere posizioni nei confronti di nessuna categoria, prima quella dei tassisti, però onestamente io me lo vedo da utente, se ho un servizio migliore, se voglio poter usare un servizio migliore, uno standard migliore, possibile che il mercato del trasporto debba rimanere ancorato comunque a degli standard che sono quelli e non si parla, non si discute, e se io voglio di più non posso prendere di più? Beh, questo oggi vorrei interrogarmi anche con voi. Cosa ne pensate delle nuove maniere? Perché non c'è soltanto Uber, me ne stanno segnalando tante altre, ci sono altri servizi, ci sono dei servizi che permettono di fare dei microaffitti di alcune autovetture, non cito il servizio perché non è inutile che continui a citare i servizi, ma che è un sostitutivo anche questo, diciamo, delle auto taxi. Si prende questa automobile, si prende, si rilascia nel punto in cui si vuole lasciare, si può prenotare, si paga per il tempo che si usa e via dicendo. Lo stanno usando, Roma è piena di macchinettine biancazzurre, piene di persone che sono entusiaste di questo servizio. Si sta spostando qualcosa anche rispetto al settore dei trasporti? Beh, su questo ci vogliamo interrogare. 800 24 00 24. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno Gianluca e a tutti gli ascoltatori. Riccardo Alemanno è il direttore dell'Automobile Club di Roma. Chiedo a Riccardo, che siamo amici da tanto tempo, quindi è inutile che ci facciamo delle inutili farze, darci del lei. Secondo te, il tuo punto di vista, sta cambiando qualcosa nelle nostre città? Questi sono tutti segnali, poi chiaramente le vicende andranno sul tavolo del magistrato, dovrà decidere chi ha ragione, chi no, le leggi, i tassisti dicono un'applicazione va contro la legge, allo stesso tempo si prepareranno, gli avvocati si leccheranno i baffi, ci sarà un insieme di procedimenti legali, ma sono convinto che alla fine non ci sarà legge che riuscirà a fermare il desiderio di un utente di avere un servizio migliore. Quali sono le alternative comunque a tutto ciò che tradizionalmente conosciamo dai tempi in cui Aldo Fabrizi faceva il tassinaro a Roma negli anni, fine anni 50, diciamo? Guarda Gianluca, innanzitutto per quanto riguarda il taxi, io ci tengo a dire che la posizione dell'Automobile Club Roma, quindi faccio questa premessa, è di assoluto, diciamo così, amicizia. Noi abbiamo formato ai corsi di guida sicura tanti tassisti romani, quindi vogliamo comunque contribuire a favorire la qualità del servizio, la sicurezza e anche dei passeggeri, chiaramente. Però la domanda che mi fai tu mi pone sotto un'ottica un pochino più alta, quindi un osservatorio. Allora, il mercato dell'automobile, anzi della mobilità, ha avuto una grande accelerazione. Sono diminuite le auto in circolazione e sai che poche auto in circolazione fanno la differenza a livello di file, ingorghi e traffico. Si circola molto meglio, non hai idea di quante poche macchine di meno bastino per rendere più circolabile. Vera la voce che dicono gli umarel che guardano il traffico, perché costa troppo la benzina, gli italiani cominciano a girare meno in macchina. È vero, la spesa media, da un'analisi che fece l'ACI un anno scorso, per gestire un'auto è alta, quindi sicuramente il circolante e fortunatamente anche gli incidenti stradali, le vittime sono notevolmente diminuiti, quindi diciamo la crisi fortunatamente ha visto anche un effetto positivo nella riduzione degli incidenti stradali. E adesso si parla di nuove forme che stanno invadendo le città, di car sharing di tipo free floating, cioè che tu prendi l'auto da qualsiasi parte, lo saprai benissimo, quello delle smart lo citavi tu, sì, a Milano ci sono altri servizi ancora per esempio diversi, per cui certamente... Ecco, spieghiamo come funziona, prendiamo un'idea come funziona, ce ne sono tanti, ne conosciamo, noi usiamo le smart, tu ti puoi iscrivere a questo servizio, tutto si lavora online con le applicazioni, quindi è favoloso, tu con il tuo smartphone in mano ti guardi la mappa attorno al posto in cui tu sei situato, vedi che sono delle macchine parcheggiate, te la vai, te la prendi senza dover fare nulla, ci fai quello che devi fare e la lasci dove vuoi lasciarla, più o meno è così. Certo, all'interno di un'area, esattamente, che è un'area molto vasta, quasi dire, coincide con raccordo, per esempio in questo caso. Poi ci sono anche altri sistemi, alcuni utilizzano una card, altri addirittura senza card, alcuni sono più destinati a un mercato giovanile, altri forse per tipo di auto a un mercato un pochino più adulto, ma poi ci sono anche altri sistemi, per esempio il car sharing, no? Sai, il carpooling, anzi scusami, cioè il che ne parliamo da anni, mi ricordo a questi microfoni, abbiamo fatto infinità di trasmissioni, sembra delle cose lontanissime. Ebbene, anche qui c'è un'evoluzione, perché se ricordi appunto il carpooling è la condivisione di un mezzo privato di una persona che la condivide con chi vuole lei. Ora ci stanno dei siti nei quali ci si può registrare, che quindi fanno da comunicatore, da divulgatore, in cui la persona dice io ho questo mezzo e posso condividerlo con altri che lo vogliono, che poi mi possono anche addirittura dare un rating, quindi tipo eBay, possono valutare quanto io sia un bravo condivisore di un mezzo privato. Io ho visto un'altra applicazione nuova che è lanciata in questi giorni, che tu ti metti a disposizione di eventuali persone che avrebbero fatto l'autostop, quindi per uno spostamento tra due città, e questi in cambio ti devono pagare parte della benzina, tutto stabilito. Questo è il trip sharing, è un'esperienza per esempio che l'Automobile Club nazionale tedesco attua per i giovani. Io voglio andare da Amburgo a Brema, sono socio dell'Automobile Club della Germania e chi vuole venire con me, poi ho un rating perché mi dai la valutazione e appunto io sono valutato quanto a qualità, non voglio i fumatori, voglio solo persone del sesso diverso, stesso sesso, adesso tu fai la battuta, però in realtà sono aperto a tutti, anche animali da cortile, quello che uno vuole, non c'è problema. Però in realtà vedi come si muove la mobilità, ecco, noi di Roma, dell'Automobile Club di Roma, lo stiamo osservando con molta attenzione. Ti dico una cosa, se io faccio il carpooling e condivido, ecco, per esempio condivido un viaggio con una persona, se io sono per esempio socio dell'ACI, ho dei servizi alla persona, io vengo soccorso, quindi io darei al passeggero un servizio aggiuntivo, cioè il servizio viene reso alla persona e quindi io posso garantire il soccorso del mezzo. Fermiamoci un secondo Riccardo, perché ecco abbiamo radunato un bel pacchetto di telefonate e cominciamo a sentire il parere degli ascoltatori. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve. Stefano, tassista. Niente, io faccio tassista a Roma e vorrei spostare un pochettino. È spaventato per quello che sta succedendo? No, non sono spaventato, dovrebbero essere spaventati gli utenti, i clienti, quelli che usufruiranno di questo servizio, perché il punto è un altro. Se a noi, per fare questo mestiere, le vorrei fare presente velocemente, abbiamo degli oneri e dei doveri. Cioè, noi per fare questa cosa abbiamo fatto un corso, abbiamo un albo, lei forse non sa, ma lei non sa, certo. Che noi per portare i terzi trasportati paghiamo un'assicurazione superiore alle altre macchine. Io adesso non so, se io prendo un cardiochirurgo e gli rompo una mano con un incidente, quello lì mi costa 10, noi abbiamo un'assicurazione che copre quell'incidente. Ma secondo lei, diciamo, questi servizi che stanno, che abbiamo un po' elencato, ma prima di tutti è Uber, è quello che in questo momento fa più paura, non hanno questo tipo di garanzie? No, io non so se ce lo hanno, ma se l'hanno queste cose, io faccio un altro esempio, noi facciamo dei... sono tutte persone che comunque hanno la licenza per auto NCC. Non è come dice lei, non so tutti quelli che hanno considerato NCC, non è così, ci sono anche altri, cioè ci sarà gente che comunque sia, non è come dice lei con gli auto NCC. No, le posso fare una domanda, però perché non vi non si organizzano anche i tassisti con un sistema simile? Ma noi già siamo organizzati, che vede, è tanto facile, uno sente parla Uber, va vede, c'ha tutto. Se lei va sul sito del 30, adesso io faccio pubblicità, ma sono tassista. Vabbè, tanto abbia fatto di tutto. Di qualsiasi compagnia, se lei va sul sito del 3570, noi abbiamo già tutte queste cose. Lei può comprare la corsa già il giorno prima, pagarla con 3570, direttamente dal telefonino o con carta di credito. Lei c'ha un'app. Noi abbiamo un'app che addirittura il taxi lei lo prenota dal telefonino con SMS e vede il taxi che gli sta arrivando a casa direttamente. Quindi diciamo sono più bravi a comunicarsi in questo momento. Sono più bravi a comunicarsi e basta. Però quello che io volevo far presente, noi abbiamo delle macchine certificate ISO 9000, abbiamo delle macchine Gold, abbiamo un servizio di disciplina. Le macchine ce l'hanno belle, quelli che dicono. Io ho fatto un corso per dirle di primo soccorso, ho fatto un corso antincendio per fare tutte queste cose. È un tassista modello, abbiamo capito. Stefano, tutti i tassisti lo fanno, non soltanto io, tutti, altrimenti no, tutti, non tutti in assoluto no, non, scusi, non gliela faccio passare. Ci sono dei suoi colleghi indecenti che stanno al telefonino attaccati tutto il tempo. Il taxi è una chiavica, c'è anche questo e va detto. Lei è un esempio, ma ha citato un servizio che è ottimo, lo conosciamo bene perché ha convenzione con tante aziende, ma ci sono anche dei tassisti che in realtà gridano vendetta. Alessandro. Sì, buongiorno. Prego, il suo punto di vista. Intanto saluto il mio cugino tassista e gli volevo dire. Lei è un NCC. Io sono un NCC, sono un NCC. Gli volevo dire ci che spiega comunque... che è l'NCC, perché tutti i giornali sono pieni, ma mica che tutti lo sanno. Che vuol dire NCC? Ma NCC è noleggio con conducente, praticamente è un servizio simile a quello del taxi. Cioè avete assicurazione, avete tutto, pagate la licenza. Appunto, le volevo dire che comunque... Quanto paga la licenza lei? Anch'io ho l'assicurazione, io lavoro da 22 anni con questo lavoro e ho partecipato a un bando, mi sono aggiudicato la licenza... e mi sono fatto le mie assicurazioni come li fanno i tassisti e quindi la sua licenza costa meno però di quella rispetto a quella di un tassista, questo è il problema. No, costa niente rispetto a quella di un tassista, cioè, costa niente, 10%. Se vado a vendere la mia licenza 10 volte meno, 10-12 mila euro se tutto va bene, capito? Anche se ho dei contratti. Senta, fermiamoci un attimo, dare le informazioni del traffico, non la interrompo. Melog, cronache meridiane. Ci avevamo interrotti per le informazioni del traffico con l'ascoltatore Alessandro NCC che ci spiegava la differenza fra un NCC e un tassista, se qualcuno ancora non l'avesse capito. Ecco che appunto il tassista, cioè il noleggio con conducente, che è autonoleggio appunto con conducente, NCC è un servizio su prenotazione. Il tassista ora diceva, ma anche noi ci possono prenotare, allora voglio dire... Non siamo abbastanza simili, è che io ho sempre messo, per esempio, io parlo per la mia categoria, tutta la passione per questo servizio e ho sempre dato un valore aggiunto, cioè io comunque sono sempre andato in giacca e cravatta, sono stato uno dei primi a avere il navigatore, il fax in macchina, adesso sarebbe obsoleto il fax in macchina perché ormai ci sono, ovviamente la tecnologia si è evoluta e dunque non servirebbe neanche più. Però ho sempre cercato di dare un valore aggiunto. Senta, mi spiega questa cosa, che il vero punto, l'abbiamo capito, il tassista si è fermato sul fatto che avevano, diciamo, un privilegio acquisito e quindi non hanno avuto tutti, dico molti, sì, necessità di adeguare il servizio. Oggi è vero, nel città italiana ci sono dei taxi che fa pena salirci, è vero, ci sono anche dei bei taxi. Voi fate i professionisti, voi cercate di migliorare il più possibile il servizio, perché chi è soddisfatto richiede la vostra macchina, richiede il vostro servizio. Mi spiega però questa questione su cui è il vero nodo, è la vera divergenza tra quello che ha detto il ministro Lupi e quello che ha detto il premier Renzi. Sulla vicenda dell'illegalità di aderire voi NCC a un servizio simile, questa uscita dal garage, qual è il punto, ecco, di caduta? Il punto è questo, è che sinceramente parlando i tassisti ci hanno fatto un po' di guerra proprio su questo fatto. Cioè io ricevo una prenotazione, parto dalla mia rimessa, vado per esempio, accompagno il cliente all'aeroporto di Bologna. Se per caso ho già un'altra prenotazione dopo 2-3 ore che mi arriva un cliente a Bologna, io non potrei neanche aspettare lì il cliente, dovrei ritornare a Padova, ripartire dalla mia... Come all'aeroporto, che l'aeroporto non lascia... Certo. Esatto, cioè è un po' assurda questa cosa, sì. A parte che è un quadruplo tragitto con inquinamento che aumenta, eccetera. Sì, diciamolo chiaro, è una legge che non sta in piedi questa cosa qua. No, non sta in piedi questa cosa. Dobbiamo dircelo. Hanno anche ragione i tassisti su certe cose, perché è vero che anche nella mia categoria ci sono certi che fanno i furbetti, però queste cose, cioè voglio dire, basta che ci siano dei controlli in più su Uber. Se non ci sono dei noleggio con conducente, basta fare una verifica con la targa, eccetera, e verificare se hanno la licenza o no. E tra l'altro, essendo un servizio che è tutto visibile online, è molto facile tracciarli. E potendo anche il cliente poi in qualche maniera denunciare o dare un voto al proprio autista, se ne accorgerebbe subito. Sentiamo Lucia, finalmente una donna. Donna Lucia. Salve, buongiorno Nicoletti. Io sono un utente pendolare e sono dell'idea che la concorrenza migliorerebbe comunque il servizio. Ne siamo sempre tutti convinti di questo. Ok, quindi non sono contraria ad altre forme di mobilità. Mi piacerebbe tantissimo che si facesse una legge seria, visto che il tassi in qualche modo è un mezzo, diciamo, tra virgolette quasi pubblico, no? Comunque riconosciuto come il primo in assoluto, che ci fossero delle tariffe più basse per permettere agli utenti, per esempio, di muoversi in città senza utilizzare la macchina. Io vedo macchine con un conducente a bordo, sì, che creano un disastro esagerato, e Milano sarebbe sicuramente più sgravata da una serie di cose. E poi tutto questo magari, non sto facendo dei parcheggi intorno a Milano con tassi che possono portare all'interno gli utenti. Quindi lei, parlando da utente, dice la concorrenza migliora il servizio, ci servono più persone che prendono le auto pubbliche, se ben meno inquinamento, come ci diceva anche prima l'NCC, è assurdo, esatto, che io devo tornare indietro a vuoto e riprendere da capo, ma vale anche per i tassisti. Esatto, con tariffe ovviamente adeguate, perché non si può fare un tragitto di pochi chilometri e spendere 10-12 euro. Sentiamo Salvatore, organizzatore di taxi degli autonoleggi. No, cosa fa lei, Salvatore? Pronto? Sì, Salvatore, prego. Pronto, io sono un autonoleggiatore di Milano. Autonoleggio. Le spiego un attimo la differenza tra il taxi e il noleggio a livello legale. Il noleggio non ha una sua legge di quadro. Nel 92, dall'allora ministro Martelli, da Cossiga e da Andreotti... Se non la prenda troppo lunga, perché sennò... No, le spiego subito. Praticamente noi siamo un'autorizzazione conto terzi, autonoleggio da rimessa con conducente. Il taxi è realmente un servizio pubblico, noi no. Noi siamo un servizio privato che è stato inserito in un quadro di legge che non è suo. Oggi cosa succede? Noi dobbiamo partire da rimessa. I modi per organizzare un servizio concreto che dia un buon servizio agli utenti ci sono. Organizzarsi in una cooperativa. La cooperativa di produzione e servizi fornisce ai suoi tesserati dei garage dove poter sostare, cioè stando dentro una rimessa e partendo con un 20 minuti di anticipo su una prenotazione. Mi faccia capire, vero, che lei è competente. Il nodo di tutta questa questione, che alla fine o esplode in una rivoluzione e in una guerra intestina fra i conducenti, o se ne deve trovare una soluzione, è che bisogna rimettere le mani alla legge. La guerra intestina da cosa proviene? Da una maggiore organizzazione. Prima sì, ma mi dà ragione sul fatto che lo stato quo non può più rimanere così. Quando c'è un servizio migliore, è chiaro che il cliente si sposta. Questi giorni non so quanta gente si sta iscrivendo proprio al servizio Uber, lo leggo su internet, poi perché dice è arrabbiata di fronte alle prese di posizione impassibili di chi dice manteniamo lo statu quo. Lo statu quo non può rimanere, ma come se ne esce? Non può rimanere, perché? Perché con l'avanzamento delle IT, con l'avanzamento della tecnologia, la globalizzazione, tutti si devono mettere a passo con il mercato e dare un'offerta plurale, differenziata, che sia il taxi, che sia il noleggio, che sia la macchina a noleggio. Oggi guardi, persino alle fermate degli autobus si vedono gli umarell che aprono lo smartphone e vedono quanti minuti mancano che arrivi il loro giusto autobus. In questo caso non vale fare una guerra Uber da parte dei tassisti o farsi la guerra fra tassisti e noleggi, bisogna organizzarsi con delle leggi che siano adeguate, ma nello stesso tempo tassisti e noleggi bisogna che si organizzino dando un'offerta per l'incarico. Bisogna fare un salto avanti, basta con le macchine che puzzano, no, le macchine che puzzano di sudore, basta con le ascelle poco pulite, basta col tassista che telefona tutto il tempo, basta con le macchine scassate, basta col fatto che se uno non ha arresto improvvisamente succede una tragedia. Non è solo Uber che dà questo servizio, noi in Italia abbiamo i nostri ragazzi di Catania che sono Edison Web, che hanno fatto un progetto per New York, al contrario, per cui noi abbiamo la capacità di auto. Sì, però adesso la devo segare, la sigla ferma. Mi sembra di aver capito che non è un argomento che esauriamo in due trasmissioni, mi sembra di aver capito che il legislatore deve mettere mano ai regolamenti, perché così non si può andare assolutamente avanti.